Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccoci finalmente insieme, intanto buona giornata, buona settimana e ho una richiesta per voi. Ascolterete tra poco dei suoni. Cercate di capire se vi sono familiari, se qualche volta di frequente vi tengono compagnia, se vi infastidiscono. Allora ascoltate, restate e chiamate 800 24 00 24 perché ho delle buone notizie per voi. Iniziamo subito. Sentite qualcosa di simile a questo? O invece avvertite, come dire, una specie di soffio? Sentiamo. O ancora un suono acuto come un fischio di una sirena del bollitore di casa, proprio così. O ancora, proviamo, avvertite un rumore bianco come di sottofondo? Allora, noi abbiamo cercato di riprodurre suoni, fischi, ronzii, soffi che disturbano la vita di molti di noi. Si chiamano acufeni. Ne parleremo oggi nel corso di questa puntata insieme al professor Giorgio Guidetti, responsabile del servizio di audio, vestibologia e rieducazione vestibolare, USL di Modena e ospedale Ramazzini di Carpi. Professore, buongiorno. Buongiorno. Acufeni, una parola che racconta tanti suoni diversi, ma in sostanza che cos'è l'acufene? Ma l'acufene è un'allucinazione, è un suono che non esiste in realtà, che noi avvertiamo all'interno della testa o dentro l'orecchio. E sostanzialmente è un segnale d'allarme. È un segnale d'allarme che qualche parte del circuito dell'udito invia al cervello per dire che qualcosa non va. Quindi è un modo che ha il nostro orecchio di lamentarsi per segnalare qualcosa che non funziona a dovere. Possiamo allora, professore, paragonare il suono e dentro questo suono mettiamo i ronzii, i fischi, il battito del cuore, i ruscellini, come come una sorta di segnale, proprio come succede con il dolore per il nostro ginocchio, insomma, il ginocchio duole, l'orecchio suona o fischia? Esattamente così, possiamo dire esattamente che così. Tanto per raccontare qualcosa che ci assomiglia, è un po' come quando abbiamo un ritornello fisso nella testa che non riusciamo a toglierci e non riusciamo a capire il perché c'è, no? Quello che gli americani chiamano il bacco nell'orecchio. E è un meccanismo dove a un certo momento i suoni che abitualmente sentiamo all'esterno è come se venissero prodotti dal nostro cervello e non riusciamo a capirne il motivo. 800 24 00 24, se le vostre orecchie suonano, fischiano, un ascoltatore mi scrive: mancano gli uccellini. Sentono anche gli uccellini, professor Guidetti? Ma sentono di tutto, è la cosa più incredibile, che possono sentire un giorno un tipo di suono e il giorno dopo un suono diverso, e anche questo è un grandissimo mistero, perché non è così semplice capire come mai queste informazioni cambino di continuo all'interno del cervello. C'è anche una componente emotiva. Quando siamo stanchi, preoccupati, stressati, tendiamo a ingigantire tutto e a sviluppare una sensibilità quasi eccessiva, come se i nostri sensi si allertassero, si affinassero, così il segnale diventa invadente. Può essere il suono, come raccontava proprio il professor Giorgio Guidetti, ma anche un pensiero, una preoccupazione. Insomma, la nostra mente sembra a volte incapace di volgere lo sguardo altrove. Ne parliamo col professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta, ben trovata. Perché la nostra mente si fissa, professore? Ma intanto la nostra mente è facilmente seducibile dai suoni, dicevate prima, e per un paio di motivi. Il primo è un motivo legato alla melodia, quindi alla capacità di emozionare e di stoccarsi come ricordo dentro un piccolo forziere che è l'amigdala, la parte della nostra memoria emozionale. Il secondo è il ritmo. La musica, in particolare la musica ritmata, gioca dei begli scherzi, non dimentichiamo i tormentoni. Questo perché il ritmo, quando noi ascoltiamo un ritmo, troviamo ad avere attivato nel nostro cervello una zona cruciale, sono i nuclei della base, quelli tanto importanti per il movimento. Quindi noi ascoltiamo il ritmo, è come se al nostro interno un ritmo si attivasse. Ma guardi bene, i nuclei della base, questa parte del nostro cervello che si attiva, è anche quella responsabile dei movimenti ripetitivi. Quindi se facciamo un passo indietro, una musica ritmata che attiva dentro di me un ritmo ripetitivo. Ed ecco quindi la possibilità che una musica, specie se così un po' cadenzata, diventi in noi un tormentone. Anche sentiamo alcune volte. Anche piacevole. Con lo terrorista. Dopo il Gangnam Style, un altro balletto virale ha conquistato internet, è l'Harlem Shake. La sua popolarità sembra non trovare limiti. Professor Barbanti, ha ascoltato anche lei? Sì, sembrava fatta apposta. C'è da dire però che Laura Vanossi è diabolica. Ecco. Ecco, ricordiamo. C'è da dire però che in alcuni casi motivetti, musiche diventano in noi riprodotti in maniera ossessiva e piuttosto fastidiosa, proprio come un acufene è fastidioso. Allora potremmo chiederci in questo caso perché, se è vero che la musica così facilmente si fissa, altre volte si fissa in maniera così fastidiosa. Potremmo però prima dire in chi questo succede con maggiore facilità. Succede maggiormente nei soggetti che ci pensano, con ipocondriaci, ansiosi, soggetti che abbiano del panico. Questo perché sono soggetti in cui più facilmente possono attivarsi dei circuiti che sono quelli propri della iteratività. Quindi della più ci pensiamo, professor Barbanti, come sottolineava il professor Guidetti, più la nostra mente ritorna lì, il suono si sente. Da neurologo devo dire che succede una cosa, che insomma il nostro lobo esecutivo, che è il lobo frontale, vede gemmare al suo interno la parte più bassa, chiamata orbito frontale, che è la parte dell'impulso, quindi è come se si indipendentizzasse e dichiarasse guerra. E sostanzialmente avere questo motivo che ti ritma dentro un orecchio è come se il soggetto percepisse ed emergesse dal suo fondo una sorta di rumore di fondo. E quindi i soggetti più ansiosi sono... Professor Barbanti, lei ha un suggerimento? Ma io vorrei poterne dare, ma in realtà il primo suggerimento è impariamo a riconoscerlo, perché se queste sensazioni sono così frequenti, intanto pensiamoci. Il secondo aspetto è assolutamente difficile poter insegnare una strategia in un cervello che sente troppo perché pensa troppo, che passa attraverso il pensarci ulteriormente. Direi una cosa molto semplice, una ginnastica viscerale, una ginnastica somatica. Ginnastica viscerale è volutamente una provocazione, e cioè utilizzare quelle tecniche che sono poi le tecniche di rilassamento e che passano attraverso sostanzialmente la respirazione, per chiudere l'eccesso di applicazioni che noi abbiamo aperto. La seconda invece è l'attività sportiva in sé, è un chiodo schiacciachiodo importante il pensare, per esempio in una corsa, nel jogging, nello spinning, in attività che ci faccia venire il fiatone, a portare avanti l'esercizio è una maniera per tornare completamente ciò che invece di ossessivo in noi rimane. Grazie professor Barbanti per essere stato con noi. Buona Grazie, giornata. Arrivederci a voi. E a proposito di mente, di cervello, professor Guidetti, il medico deve usare la testa per trovare una spiegazione, farlo in tempi brevi per evitare che il suono vada in memoria. Questo è il primo passo, prof. Sì, certamente. Il primo problema è quello di non sottovalutare immediatamente il sintomo, considerando che il sintomo è appunto un allarme relativo a qualche evento patologico, diciamo così, all'interno del circuito dell'udito. La prima cosa da fare è cercare di identificare dove sia questo problema e cercare di rimuoverlo. Se non ci si riesce in tempi accettabili, allora sì che può arrivare quel discorso che si faceva tanti anni fa, non c'è niente da fare. Invece la buona notizia è nel corso della trasmissione, proprio con l'intervento dei nostri ascoltatori, la porteremo, le buone notizie ci sono e non è detto che si debba convivere tutta la vita con questo suono. Raccogliamo alcune informazioni. Dottore, Sento un fischio fastidioso, come... Signora, mi dica qualcosa di più. Dove lo sente? Solo da un orecchio o da entrambi? Aspetti. Devo fare silenzio per sentirlo meglio. Eccolo di nuovo. Provi ad aprire e chiudere la bocca e mi dica se lo sente di più o se diminuisce. Ah, oh, va bene, apro e chiudo. Ah, oh, ma sono così contratta. Ha visto che bravi, professor Guidetti? Abbiamo fatto una scenetta, abbiamo fatto finta di entrare nel suo studio. È proprio così, eh? Eh? È proprio così. Intanto abbiamo Simone da Pesaro, Raffaele dalla provincia di Caserta, Grazia dalla provincia di Bergamo. Facciamo, come si dice, un'infornata di ascoltatori. E intanto lasciatevi in qualche modo attivare dalla nostra scenetta, perché più informazioni riusciamo a raccogliere su questo disturbo e a trasferire al medico, più si avvicina la soluzione. Simone, buongiorno. Simone? Buongiorno. Eccomi qua. A dire la verità, chiamo per mia sorella, non per me, perché ha un problema di occhi da alcuni anni. Sì. Non sappiamo se è dovuto a un virus o all'uso delle cuffie, ma sta di fatto che la domanda era questa: vorrei sapere se è vero che esiste un mix di integratori alimentari che combinati tra di loro possono, se non risolvere, spegnere questo fastidio. Simone, grazie, perché la sua voce non è pulitissima, non la sentiamo molto bene, ma il professor Guidetti immagino abbia sentito. Esistono degli integratori, un mix di integratori capaci di spegnere o far diminuire questo disturbo? È una domanda trabocchetto. Nel senso che integratore può significare tutto e il contrario di tutto. Attualmente sul mercato sono proposti numerosi farmaci, diciamo, non tipicamente da farmacia, ma insomma quelli che a volte si trovano anche in erboristeria, sì, mescolate sostanze, vitamine, valeriana e tutti questi, sì, chiamiamoli integratori per capirci. Sì. È chiaro che possono avere una loro funzione in alcuni casi, in altri sono totalmente inutili, cioè non è così banale. Ripeto, la prima cosa da fare è cercare di risolvere il problema all'origine. È chiaro che se per esempio prendiamo un farmaco particolarmente attivo a livello vascolare, come può essere il ginkgo biloba, una sostanza formata da numerose molecole di tipo diverso, però che insomma sostanzialmente migliorano la circolazione, male non facciamo in linea di massima. Certo. Il problema serio in questi casi è il rischio di autoprescrizione, dove non si conoscono poi i possibili effetti collaterali, o ancora peggio, non si conosce magari da parte dell'acquirente l'eventuale interazione con altri farmaci che assume per motivi diversi. Quindi io suggerisco sempre di non passarsi da familiare a familiare gli integratori, ma di parlare prima col medico per essere sicuri di non far sciocchezze. Raffaele dalla provincia di Caserta, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Io ho un problema di fischio all'orecchio destro. Però devo cominciare un po' da lontano. Quando ero bambino ho avuto la testata giocando a pallone, da allora ho avuto due interventi. Sì. A distanza di tanti anni, da un anno circa ho questo rumore all'orecchio, un fischiettino, dovuto al lato destro solo. Sono andato all'otorino, mi ha prescritto delle aerosol, delle pillole, eccetera, e sto prendendo, però io ho sempre lo stesso problema. Sempre il fischio. Non è dovuto magari a un'altra patologia, non se ne è accorto l'otorino? Raffaele ci fa una domanda molto chiara e professor Guidetti la invito a raccontarci quali sono gli esami che permettono al medico di fare chiarezza e di escludere patologie. Perfetto, direi che è molto giusto a questo punto che ne parliamo, perché il rischio è sempre quello. Parliamo di un sintomo e ci dimentichiamo appunto che la patologia è in una struttura complessa che richiede anche una valutazione che non è con un unico test. Sì. Ma per esempio è chiaro che ne occorre una serie che consenta di studiare punto per punto il circuito dell'udito. Quindi la prima cosa da fare certamente è un esame audio impedenziometrico che permette di studiare sia la sensibilità, chiamiamolo, del pianoforte che abbiamo nell'orecchio, sia del sistema che si chiama coclea in termine tecnico, sia il sistema del timpano, degli ossicini, della tuba di Eustachio. Poi bisogna fare i potenziali evocati uditivi, cioè si studia la capacità del nervo di condurre il segnale dall'orecchio al cervello, eventualmente anche valutazioni sul cervello. Naturalmente anche la visita banale, guardare all'interno dell'orecchio, qualche volta risolve il problema, specie nelle forme acute. Pensate, tanto per dire, un banale tappo di cerume, ecco, che occluda all'improvviso un orecchio è perfettamente in grado di mandare acufeni. Ecco. Più il problema si associa ad altri sintomi come il dito che si abbassa, che fluttua, sì, la sensazione di pienezza o addirittura aggiramenti di capo, vertigini, più il rischio di avere una malattia, tra virgolette, importante esiste, perché è chiaro che più sintomi ci sono, più vuol dire che il danno ha colpito varie zone. Ma questo invece, professore, se noi il suono lo sentiamo di un'intensità maggiore, questo non vuol dire che il problema si sta aggravando? Giustissimo, assolutamente, non è come la febbre. Se la febbre sale, la malattia peggiora. No, l'acufene spesso e volentieri sale in funzione, in proporzione al livello di tensione emotiva, di stato d'animo preoccupato, e quindi, come diceva prima il collega neurologo Barbanti, spesso e volentieri è più l'espressione di una attenzione esagerata al, certo, sintomo, che non a un reale aumento dello stesso. Una cosa interessante è che, se andiamo a misurarlo fisicamente, l'acufene si può misurare con una tecnica che si chiama acufenometria, quasi sempre restiamo stupiti che del fatto che l'intensità reale di questo suono è minima, che se lo facessimo sentire all'esterno uno direbbe quasi quasi, beh, ma non si sente quasi niente. Ma averlo dentro l'orecchio e averlo in modo continuativo dà parecchio fastidio. Sì, professor Guidetti, nella nostra scenetta abbiamo sottolineato un sintomo, un segnale che molto spesso viene riferito al medico, e cioè che aprendo, chiudendo la bocca, il fischio, il suono si modifica, anche perché questo ci dà modo di parlare di quello che viene tirato sempre in ballo quando le orecchie fiscano, o spesso in ballo, che è il collo, preso di mira anche dal nostro stress. È un possibile colpevole degli acufeni? È un amplificatore più che il colpevole diretto. In effetti tensione muscolare del collo di qualsiasi origine, da un colpo di frusta fino alla tensione emotiva e basta, è sufficiente per attivare una catena muscolare che alla fine attiva quello che possiamo chiamare l'amplificatore meccanico dentro l'orecchio, quindi alla fine è come se aumentasse la percezione per questa contrattura dei muscoli. E la stessa cosa vale per il piano della masticazione, dove a un certo punto impariamo tutto che quelli che digrignano i denti, quelli, certo, che hanno sempre quella tensione muscolare nei muscoli masticatori, avvertono maggiormente il suono, anche perché queste catene poi finiscono per far chiudere la tuba d'Eustachio, il canale fra naso e orecchio, e questo appunto crea all'interno dell'orecchio un meccanismo di rimbombo maggiore che consente di sentire ancora di più appunto gli eventuali rumori interni. Allora, per orecchie che fischiano, che ronzano, che suonano, ma anche per orecchie silenziose, un esercizio per mantenere la testa sul collo senza tensioni e fatica ci aiuta il nostro professor Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive alla Facoltà di Scienze Motorie dell'Università Cattolica di Milano. Professore, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletta, a tutti gli ascoltatori e agli esperti. Sì, la tengo in bilico, professore, tra i mercati, per cui le faccio scavallare per i mercati, ma le chiederei di darci qualche indicazione, così noi durante l'ascolto dei mercati proviamo, per capire se il nostro collo è teso, perché sappiamo che come una calamita tira tutte le tensioni, ma ce ne accorgiamo spesso quando è tardi. Quindi facciamo un piccolo test e poi ritorniamo insieme per raccogliere anche i risultati dei nostri ascoltatori dopo i mercati. Prof, vada lei. Perfetto, invito gli ascoltatori a prendere per esempio la mano sinistra, guardare il palmo della mano sinistra e avvicinare i polpastrelli della stessa mano sul collo, sul trapezio, su quella parte che congiunge la spalla alla testa, e schiacciare quei polpastrelli. Io vorrò sapere sentirò dolore o meno. A quel punto avremo una risposta importante e da lì potremo proporre un bel esercizio. Essere e benessere. Eccoci di nuovo insieme, in linea con noi abbiamo il professor Tirelli che ci ha guidato ad un esercizio per il nostro collo per capire se stiamo accumulando molte tensioni. Professore? Dunque, se alcuni degli ascoltatori, credo molti in realtà, avessero dovuto sentire questo dolore nella zona del cosiddetto ventre muscolare, che sarebbe la parte più corposa del muscolo, quindi per intenderci non quella dei tendini, non quella vicino alla spalla, non quella vicino alla nuca, allora se hanno sentito questo dolore più o meno intorno al terzo o quarto dito della mano, nella pressione fatta, vuol dire che c'è un trigger point, cosiddetto punto grilletto, che ci segnala il fatto che c'è uno stress esasperato, esagerato rispetto a quelle che sono le modalità di gestione dello stesso stress. Infatti, in questo senso si collega molto bene il discorso fatto dagli esperti prima, ossia del fatto che lo stress è una delle concause anche di acuizione di degli acufeni. Io quello che propongo è chiaramente un esercizio semplice, perché è proprio nella semplicità che abbiamo le risposte più chiare, più belle. Ad esempio, se qualcuno sta ascoltando la radio seduto, magari in ufficio, a casa propria, o anche in piedi, questo si può fare, potrebbe lasciare andare completamente in rilassamento il braccio destro, ad esempio, dove prima aveva sentito il dolore. A questo punto il mio capo, la mia testa, si gira invece, si inclina verso sinistra, dolcemente, lentamente, verso la spalla opposta, quindi verso la spalla sinistra. Sì. Sentirò sicuramente un allungamento un pochino doloroso. Questo è uno stretching, un allungamento classico del muscolo trapezio, che per quanto mi riguarda e per quanto riguarda le tecniche complementari si associa anche a un discorso interessante di medicina cinese. Perché? Perché nel ventre muscolare, proprio nel centro corposo del nostro trapezio, noi abbiamo il punto 21 del meridiano della vescica biliare, che è il punto che ci segnala quanto stress stiamo accumulando in questo momento. E allora, facendo tre respirazioni profonde, quindi inspiro dal naso ed espiro dalla bocca, ad ogni completa espirazione sentirò che la mano andrà un pochino più giù, ma al contempo sentirò anche un pochino di dolore. Questo però è un buon dolore, perché segnala il fatto che le fibre muscolari si stanno allungando e quindi sia i muscoli superficiali ma anche i muscoli profondi, connessi anche all'apparato vestibolare, possono senz'altro subire una positiva azione di rilassamento. Fantastico, mi sento quasi nuova, che è una bella cosa, eh? Professor Tirelli, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a voi, è sempre un piacere, buona energia a tutti, grazie. Grazie. Professor Guidetti, ha fatto l'esercizio anche lei? Certamente. Bravo, bravo. Guai, guardi che poi, allora, senta questa mail. Buongiorno Nicoletta, volevo chiedere agli esperti se c'è relazione tra colpo di frusta e acufeni, in quanto lo sento nell'orecchio sinistro da quando ho avuto un tamponamento con l'auto. Professore? È possibile, sì, non... molte persone che hanno avuto un colpo di frusta poi lamentano questa sensazione di rumore. Sono possibili due cose che vanno verificate appunto con gli accertamenti che dicevamo prima: o c'è stato contemporaneamente un piccolo danno all'interno dell'orecchio da scuotimento violento, non è la cosa più probabile, oppure rientriamo proprio nella casistica descritta precedentemente di tensione muscolare, quindi in questo caso è molto più semplice eliminare il problema. Nicola da Lodi, buongiorno. Buongiorno Nicola. Buongiorno. I Nicola vanno sempre forti, vada. Moltissimo. No, praticamente io non ho fischi o cose del genere, però praticamente... Meno male, no? Sì. È una bella cosa. Però? Praticamente quando parlo mi rimbomba la mia voce nella testa, diciamo, e quando cammino la stessa cosa, sento i miei passi che mi rimbombano nella testa. Se invece sto fermo e zitto è tutto perfetto. E quindi sono andato da tre otorini che tempo fa, ma ho detto che era tutto a posto. E poi, insomma, però lei dice troppo rumore, è un Nicola rumoroso. Professor Guidetti, che cosa succede? Guardi, così naturalmente stiamo facendo al telefono una pseudodiagnosi telefonica. Diciamo che spesso questo succede a chi ha problemi alla tuba d'Eustachio, che può essere una tuba che non ha, diciamo, la dinamica giusta di apertura e chiusura. Qualche volta rimane troppo aperta, qualche volta rimane troppo chiusa. In entrambi i casi può dare vita a queste sensazioni di rimbombo all'interno dell'orecchio. È una cosa che capita, diciamo, non... frequentissimamente, però non è neanche così rara. Cioè, è come se lasciassimo una porta aperta e sentiamo quello che succede nella stanza accanto. Diciamo di sì. Le piace? Diciamo così, sì, direi che allora, con l'idea ci siamo. In linea con noi abbiamo Laura Pigozzi. Ciao Laura! Psicoanalista, è stata una nostra esperta, abbiamo parlato di un libro molto bello, Nuda Voce, mi segnalano che sei al telefono, mi fa piacere che tu ci ascolti. Guarda, non potevo non chiamare perché l'argomento è bellissimo e devo farti complimenti, come al solito fai delle trasmissioni meravigliose. L'acufene, volevo dare questo piccolo esempio che non vuole essere risolutivo, ma per esempio ho due pazienti che avevano l'acufene, che sono venuti non per quello, sono venuti per altre motivi. Sì, perché dallo psicoanalista si va anche per altre ragioni. Certo. Però diciamo durante la cura questo sintomo è sparito nel momento in cui queste persone hanno individuato delle parole di persone a cui erano legate, familiari in un caso del marito, nell'altro caso della madre, che dicevano delle cose molto non belle, no, nei loro confronti. Quindi il loro acufene era una sorta di difesa, certo, da queste parole interne che loro avevano interiorizzato, quindi la parola dell'altro, di un altro significativo, che viene interiorizzato dal soggetto e che diventa, come dire, molto presente. Allora l'acufene copriva questa voce interna. Nel momento in cui loro hanno riconosciuto la causa di questo acufene, cioè il fatto che fosse un acufene da difesa, naturalmente forse non tutti sono così, sì, ma in questo caso era così, è messo anche questo sintomo. Una sorta di suono che copre le parole, le parole, esatto, che producono ferite, che hanno segnato, sì, la psiche e la vita di queste persone. Ringrazio Laura Pigozzi per questa lettura che ci arriva dalla psicoanalisi e soprattutto dall'esperienza diretta di un professionista, parole che ci hanno ferito. Grazie Laura per essere stata con noi e per averci ascoltato e per il tuo contributo. Grazie mille, grazie ancora. Volevo dire anche una cosa sull'esercizio del collo, sì, questo bellissimo esercizio che ha fatto il professor Tirelli, che è un esercizio che io uso anche con i cantanti, perché effettivamente per cantare, sai che sono anche insegnante di canto, lo dico perché se no non si capisce come mai parlo di questo, con i cantanti effettivamente rilassando il collo, rilassando quelle fasce muscolari, la voce si contrae di meno e quindi fluisce in maniera più naturale. Quindi con questo esercizio, via lo stress e tutti i canterini. Un abbraccio a Laura Pigozzi. Professor Guidetti, nella lettura della dottoressa Pigozzi, il suono e la ferita di una parola viene coperta dal suono, ma c'è anche suono scaccia suono, è anche uno delle offerte terapeutiche che vengono attualmente impiegate per diminuire gli acufeni. È così? Sì, è vero. Tra l'altro c'è una piccola cosa che volevo sottolineare nel discorso fatto un attimo fa. In alcuni casi si arriva a usare l'ipnosi, non è un caso, appunto perché qualche volta la componente emozionale con i traumi, eccetera, acquisisce un valore tale che si arriva anche ad applicare delle tecniche come l'ipnosi. E hanno dei buoni risultati, professore? Dipende sempre dai soggetti, naturalmente, perché questi che hanno stati descritti precedentemente sono veramente una percentuale abbastanza modesta, insomma. È possibile che questo avvenga, naturalmente, perché i meandri della mente sono sia sconosciuti, certo, che incredibilmente interessanti, quindi è possibile tutto. Però, insomma. Professore, invece sul suono scacciasuono, come l'ho definito suono, io, ma è una terapia? Sì, cioè diciamo che a un certo momento ci si è concentrati su due aspetti, soprattutto sull'aspetto emozionale e con l'assistenza degli psicoterapeuti, e sulla possibilità, tra virgolette, di un approccio cosiddetto cognitivo, cioè cercare di trovare il modo di confondere il cervello perché non si concentrasse sul rumore. E ci sono sostanzialmente due metodi. Il primo è quello di usare un suono mascherante. Naturalmente con un suono mascherante si sente meno il suono interno, poi dipende, certo, dall'entità del suono mascherante, qualche volta è necessario mandarlo così ad alta intensità che diventa fastidioso poi lui. Sì, mentre il secondo suono? Il secondo modo è la musica cosiddetta antagonista, cioè Io dico che si cerca di sparscegliere il cervello se ascoltare una musica piacevole o interessante, piuttosto che quella che spontaneamente gli arriva da qualche circuito sperando che il cervello abbia buon gusto. Essere e benessere. Abbiamo Elisa, ci chiama da Udine, 800 24 00 24. Buongiorno e benvenuta. Grazie, buongiorno a voi. E io da qualche anno accuso un acufene solamente ad un orecchio e ho notato che quando prendo un po' di freddo questo mi aumenta e mi chiedo, o può essere anche un caso, però dopo qualche giorno che io appunto anni fa ho preso molto freddo perché da un ambiente caldo che sono stata a trovare un paziente in ospedale sono uscita ed era molto freddo e non avevo il copricapo. Quindi Elisa, quello che si dice un colpo d'aria. Professor Guidetti, può essere il freddo a scatenare questo problema? Il freddo in senso specifico, diretto, no, nel senso di abbassamento delle difese, quindi favorire fenomeni infiammatori nelle zone dell'orecchio, tuba d'Eustachio, naso, orecchio, certamente. Un classico esempio, lo sanno tutti, è quando esiste il problema, per esempio, del raffreddore, no? Sentiamo subito tu l'orecchio chiuso, i fischi, questo. Però è vero anche un'altra cosa, che in soggetti particolarmente predisposti, magari con già problemi anche di circolazione o ancora peggio con la pressione alta, ecco che l'esposizione al freddo può favorire la difficoltà di circolazione all'interno dell'orecchio e parte il segnale d'allarme che è l'acufene. Certo. Anche questo è possibile. Sto correndo con il cuore in gola tra la gente indifesa. Che il cuore batte, è normale, ci fa piacere, guai se non lo facesse, ma sentirlo battere nelle orecchie, come mi stanno scrivendo molti degli ascoltatori, è un'altra storia, o meglio, fa un altro effetto. In linea con noi abbiamo la dottoressa Maddalena Lettino, responsabile dell'unità operativa di cardiologia presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno a voi. Se si sente nelle orecchie, abbiamo detto, è una acufene, appartiene a questa grande famiglia da suoni diversi, ma il nostro cuore si fa sentire anche altrove, anche quando non vorremmo sentirlo, e lì, a proposito di stress, ci preoccupiamo subito. Dottoressa. Certo, è vero, la sensazione fisica del battito cardiaco, che quindi non è una sensazione acustica o sonora, noi l'avvertiamo tipicamente nel centro del petto, la chiamiamo più genericamente cardiopalmo, palpitazione, ed è una sensazione di battito cardiaco spiacevole, che solitamente quindi ci allarma, che può non essere niente, perché è solo un'accelerazione generata dallo stress, oppure può essere un'aritmia. In quel caso è più difficile che il paziente ci dica che sente il cuore regolare o irregolare, ci dice che magari il cuore fa le capriole all'interno del petto, che ha una sensazione di frullio, e questo è molto suggestivo del fatto che ci sia invece un'alterazione del ritmo. Ecco, succede un po' con il cuore, alcuni dicono fa le capriole, altri frullo, le farfalle, è la stessa cosa che capita un po' con gli acufeni, c'è una sintomatologia che viene riferita in modi diversi da ciascun paziente. Dottoressa Lettino, invece noi possiamo cercare il cuore per sentirlo? Non c'è dubbio, noi abbiamo la possibilità di avvertire, e questo con la palpazione, quindi con un altro metodo fisico, con l'uso delle nostre dita, abbiamo la possibilità di sentire il battito cardiaco nella posizione più classica, che è quella del polso, che non è sempre facile per le persone che non lo fanno, diciamo, dal punto di vista professionale. Un po' più facilmente perché è più forte, quindi reperibile su un'area, diciamo, più estesa, immediatamente dietro l'angolo della mandibola, alla base, quindi alla radice del collo, dalla parte del capo, affondando un pochino le dita dietro l'angolo della mandibola, è più facile che sentiamo la pulsazione che viene da un vaso molto più grosso e che quindi ragionevolmente riusciamo a trovare. E questo ci dà una prima informazione se è ritmico o non ritmico, se è totalmente irregolare oppure se è solo accelerato ma perfettamente regolare. E a proposito di ritmo accelerato, ci racconta qualcosa anche del nostro allenamento. È normale quando facciamo attività fisica sentire che il cuore cuore batte forte. Questo, dottoressa Lettino, è normale? Cosa ci dice? Sostanzialmente che forse dovremmo continuare ad allenarci. È così? Io direi di sì. Allora, è normale che quando facciamo attività fisica il battito cardiaco aumenti, perché ovviamente le richieste da parte dell'organismo di ossigeno e quindi di velocità della circolazione sono maggiori. Sarebbe impensabile che questo non si verificasse. Se però cominciamo ad avvertirlo come una sensazione fastidiosa, vuol dire che siamo poco allenati, perché il nostro allenamento ci aiuta a fare in modo che i battiti cardiaci aumentino, ma entro un certo limite, garantendo comunque un ottimo comportamento muscolare. Più siamo allenati e meno abbiamo questa sensazione, quindi questo è un ottimo obiettivo. Grazie alla dottoressa Lettino per essere stata con noi. Buona giornata. Grazie a voi. Professor Guidetti, il cuore l'abbiamo sistemato, raccontiamo allora le altre opzioni terapeutiche. Abbiamo detto, abbiamo delle buone notizie per voi se le vostre orecchie fischiano, suonano, trillano, si tappano. Oltre al suono scacciasuono, che cosa possiamo aggiungere, professor Guidetti? L'ipnosi, ne abbiamo parlato. Sì, diciamo che possiamo parlare di altre due modalità di terapia. Sì. La prima, anzitutto direi, ci hanno dimenticato una cosa importante: dobbiamo cercare di migliorare in assoluto l'udito, quindi nei soggetti per esempio che hanno un rumore notevole, fastidioso e che hanno anche una grossa perdita uditiva, non dobbiamo dimenticarci che la protesi acustica aiuta. Sì. Perché permette di sentire meglio, fa fare meno sforzo di concentrazione, contemporaneamente fa soffrire meno l'orecchio, quindi questa tante volte è già una soluzione. Poi ecco, ci sono degli strumenti nuovi, diciamo, relativamente nuovi da qualche anno sul mercato, che sono dei piccoli laser a bassa potenza che migliorano il metabolismo delle cellule dell'orecchio, quindi quando per esempio diciamo l'acufene si associa e si accompagna a una perdita uditiva e ne rappresenta anche l'allarme, ecco che per esempio questo può essere un sistema classico, al soggetto con la pressione alta, con i problemi di circolazione, il diabetico, insomma soggetti di questo tipo che hanno un danno alle cellule dell'udito, ecco che il laser può risultare particolarmente utile. Perché le riattiva un po', certo. Terapie lunghe. E la seconda opzione di cui ci voleva parlare, professore? Sono gli esercizi di stimolazione alternata, tattile, sonora o di stimoli luminosi. Consentono una specie di reset, diciamo, dell'attività cerebrale. È come se uno fosse costretto a guardare prima destra, poi sinistra, ripetutamente, destra, sinistra, molte volte, oppure a rendersi conto che gli stimoli nella mano, tenendo in mano appunto un oggetto apposito, passano da destra a sinistra, oppure addirittura con la cuffia i suoni destra a sinistra. Questo bombardamento destra a sinistra alternato, magari contemporaneamente di più tipi di stimoli, tattili, sonori e visivi, aiuta a, diciamo, decondizionarci, una specie di reset del nostro cervello, e da un lato ti rilassa e dall'altro ti aiuta a non concentrarti sul suono, troppo su questo suono. Sì. Professor Guidetti, grazie, io devo salutarla, la ringrazio per essere stato con noi. Carmelo Lauricella in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, noi ci sentiamo di nuovo domani, buona giornata. Essere e benessere.